Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Circa la metà del pesce che mangiamo è di allevamento. La piscicoltura si è sviluppata per sopperire alla domanda di pesce, evitando di andare a prelevarlo nel mare e impoverirlo ulteriormente. Si tratta di una pratica virtuosa soprattutto se consideriamo che noi umani, diciamo così, consumiamo un numero molto limitato di specie ittiche, che quindi sono sottoposte a un prelievo enorme. Ma come spesso accade c'è un però. Infatti molte delle specie allevate sono specie carnivore. Se da un lato è vero che le si può nutrire con pesce di ogni tipo spalmando il prelievo su tutte le specie di pesci anziché concentrarlo su poche particolarmente prelibate, dall'altro lato siamo di fronte a una pratica molto inefficiente dal punto di vista cosiddetto trofico, cioè della catena alimentare. Per dare un'idea, per avere un chilo di salmone d'allevamento bisogna dargli in pasto 4-5 kg di pesce meno pregiato. D'altronde non è un caso se non si allevano animali terrestri carnivori a scopo alimentare e si preferiscono erbivori o al limite gli onnivori. Ma la situazione della piscicoltura è davvero così drammatica? Ne parliamo con Benedetto Sicuro, che è ricercatore dell'Università di Torino, Dipartimento Scienze Veterinarie. Buonasera Sicuro. Buonasera a lei, buonasera. Senta, allora, per spiegarci, partiamo proprio dal salmone, diciamo così, dal caso norvegese. Sì, allora, il salmone atlantico è la prima specie allevata in Norvegia e loro fino al 1970 hanno anche negli anni successivi, fino agli anni 90, hanno introdotto una grande quantità di pesce per poter produrre un chilo di salmone, circa 4,4 kg. Questo però non è rimasto questa stessa quantità costante negli anni, ma perché recentemente, nel 2013, è stato visto che sono sufficienti semplicemente 700 grammi di pesce pescato per produrre un chilo di salmone. Ecco, 700 grammi di pesce pescato, qualcuno dice com'è possibile? Evidentemente bisognerà sopperire al resto con qualcos'altro che non sarà più pesce pescato. Che cos'è questo qualcos'altro? Dunque, è molto semplice. I norvegesi sono stati in grado di sfruttare molto efficacemente lo scarto del pesce che mangiamo. Quando noi mangiamo un pesce, il 50% del pesce va buttato, il 50% soltanto viene consumato. I norvegesi sono stati abilissimi in questi anni a sfruttare questo 50% rimasto per introdurlo a sua volta nell'alimentazione di pesce e per permettere conseguentemente un sensibilissimo diminuzione della quantità di pesce pescato. Pescato, quindi anche di sfruttamento di risorse naturali. Cioè, pensiamo a quando noi compriamo il classico filetto. In realtà lì circa metà, la testa, la spina e altre parti sono di pesce, viene normalmente buttato. Invece è un ottimo mangime. Questa roba qua va benissimo per fare il mangime. Se si sfruttano tutti questi scarti, da 4,4 kg col salmone si può passare a 0,7, quindi un salto avanti gigantesco. Senta, veniamo allora all'Italia, perché uno dice, ma come, in Italia non lo facciamo questo, è così ovvio? No, in Italia viene fatto, il punto è che non è stato ancora quantificato in che modo viene fatto. Sicuramente le case mangimistiche che vendono mangime in Norvegia sono le stesse quasi che vendono mangime in Italia e quindi l'utilizzo di questi sottoprodotti è già utilizzato da parecchio tempo in Italia e anche in materie prime vegetali che non impattano sulle popolazioni di pesce selvatico, vengono già utilizzate. Solo non che si sa quanto. Ecco, e perché allora è importante invece al punto che lei insomma propone di far partire un progetto, cercare di misurare queste informazioni? Perché è importante? Perché dobbiamo quantificare. In Italia questo dato a questo momento non si sa e quindi noi dobbiamo mettere insieme tutte queste informazioni e cercare di quantificare. Successivamente questo potrebbe portare molto semplicemente poi ad una conseguente etichettatura del prodotto dell'acquacultura italiana. Sarebbe banalmente questo l'idea del progetto. E certo, insomma, bisogna prima capire che cosa succede per poi magari migliorarlo, magari scopriremo che il salmone, non so se ne leviamo il salmone, ma voglio dire, magari non il salmone o qualcos'altro, invece di 0,7 siamo 1,5 e si può migliorare, e dall'altro le dice, da queste informazioni si può costruire un sistema per informare il consumatore della sostenibilità, diciamo, del pesce d'allevamento. Sì, le tre specie italiane maggiormente allevate sono la spigola, l'orata e la trota ridea. Queste sono tutte e tre specie carnivore, quindi è importante capire in queste tre specie che cosa sta succedendo e come si può migliorare, tenendo salva la qualità per i consumatori. Grazie Benedetto Sicuro. Grazie mille anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Scriveteci a smartcity@radio24.it, mi trovate anche su Facebook col mio nome Maurizio Melis. Buona serata a voi tutti, buona continuazione su Radio 24.